E questa è la seconda presentazione che faccio del libro. La scorsa settimana sono stato a Cremona all'interno di un aperitivo letterario e oggi è appunto la seconda. Il libro si tratta di una stampa post tesi di laurea. Mi ha dato l'opportunità Alternativa Libertaria, un'organizzazione anarchica. Come dicevo, si tratta di una tesi triennale di scienze politiche, l'Università di Scienze Politiche, tesi sul pensiero politico appunto all'interno della Rivoluzione Francese. Innanzitutto perché la scelta di fare una tesi, di svolgere una tesi sulla Rivoluzione Francese. Dopo 5 mesi passati in Erasmus in Francia, sentivo che dovevo dare qualcosa intorno alla Francia, soprattutto ad Avignone, un po' perché la Rivoluzione Francese viene sempre vista come la rivoluzione da cui è partita la società attuale a costruirsi. Guardiamo sempre la Rivoluzione Francese per quanto riguarda i vari diritti dell'uomo e del cittadino, guardiamo alla Rivoluzione Francese per il ruolo di Robespierre e dei Giacobini, alle medie e alle superiori ci viene descritta la Rivoluzione Francese come la rivoluzione bellissima che ha dato una svolta all'umanità, sempre in chiave, vedendo il ruolo di Robespierre e il ruolo dei Giacobini in chiave positiva, in quanto hanno ribaltato una società e una monarchia. Durante un corso all'università, leggendo appunto su uno dei tanti libri che ci era stato assegnato, era comparso questo nome, Mélenchon, senza però andare bene nel dettaglio su cosa fossero questi Mélenchon qua. Si leggeva soltanto che non erano girondini, non erano monarchici, però si permettevano di contestare i Giacobini e Robespierre. Allora lì mi sono fermato e ho detto, ma come? C'era qualcuno che all'interno della Rivoluzione Francese si permetteva di contestare Robespierre, i Giacobini, i Montagnardi? Sì, erano Mélenchon. Forte nei 5 mesi, per fortuna, in Francia, ho cominciato a studiare, a leggere, a cercare sui blog. Ho trovato un blog di uno storico francese, Claude Guillon, che poi mi ha aiutato nella stesura della tesi, che trattavano appunto di questi Mélenchon qua. Quindi inizialmente era una passione, un interesse mio. A un certo punto dovevo scegliere l'argomento della tesi, mi sono ritrovato con tanto di quel materiale e ho detto, vabbè, facciamola su questo movimento qua. Interessantissimo, a mio avviso, proprio perché, come dicevo, la Rivoluzione Francese e il ruolo soprattutto dei Giacobini e di Robespierre ci è sempre stato presentato come un ruolo positivo e forte di rivoluzionari che hanno decapitato la testa al re e poi hanno dato tutti questi diritti, i diritti di cui possiamo beneficiare ai nostri giorni. Vi erano però alcuni uomini che si sono posti contro, sono finiti la maggior parte di loro ghigliottinati alla fine della Rivoluzione Francese, poco prima della fine di Robespierre. Qual è stata l'importanza di questi Mélenchon qua? Innanzitutto erano dei rivoluzionari, come molti altri, che all'inizio della rivoluzione hanno accettato di andare di pari passo in alleanza, diciamo così, creare un'alleanza con la borghesia nascente, con chi cominciava ad arricchirsi maggiormente grazie al commercio, grazie ai latifondi, ai primi latifondi che non facevano parte che non erano proprietà della nobiltà, per riuscire a ribaltare la monarchia e creare un sistema differente. Parlo di rivoluzionari perché i storici, vari storici, da Mathieu a Claude Guillon, che è uno dei più recenti, a studiosi del pensiero politico e del diritto politico, per lo più in Francia, hanno cercato di ricondurli in una qualche forma ben strutturata, quindi chi un partito, chi in realtà ha cercato di... Ne ha parlato come dei singoli individui che ogni tanto si vedevano per parlare di come portare avanti la rivoluzione. Per fortuna la Biblioteca Nazionale Francese scannerizza i scritti più antichi e li mette su internet, quindi ho avuto la possibilità di leggermi proprio i loro scritti. E come lo presento inizialmente proprio nell'introduzione, secondo me parlare di Enangier come un partito è un'esagerazione. Innanzitutto un partito è un qualcosa di ben strutturato. In Francia cominciavano ad esserci delle prime forme di partito, se così possiamo ben definire una qualche struttura, quali poi sarebbero stati i Girondini e i Giacobini dopo. Gli Enangé erano degli individui, erano dei rivoluzionari che a un certo punto si sono visti prendere dalle proprie mani la rivoluzione, e l'hanno vista prendere una strada totalmente differente rispetto a quella che avrebbero voluto loro. Ossia, in scienza politica si studia che nel momento in cui un potere viene meno, c'è un altro potere che lo prende il suo posto. Quindi nel momento in cui è stato decapitato il re, Luigi XVI, e di conseguenza si è posto una fine alla monarchia, doveva esserci un potere che prendeva il controllo del territorio francese. Questo potere è stato appunto impersonificato dai Girondini prima, dai Giacobini e soprattutto da Robespierre. A un certo punto, quindi, nonostante vi fosse un'alleanza forte prima con la borghesia, poi con i Giacobini, questi fatidici Enangé, cerchiamo di chiamarli in questo modo perché lo stesso Robespierre li considerava un gruppo omogeneo, quindi se i loro contemporanei li consideravano come un unico gruppo, ai nostri giorni potremmo considerarli come tali. Dicevo, a un certo punto hanno detto: ok, basta, dobbiamo riprendere in mano noi la situazione, il popolo, e cambiare, cercare di risollevare le sorti della rivoluzione. All'interno di questi rivoluzionari qua ve ne sono 4-5 che possono essere considerati i più importanti: Jacquerou, Varley, Leclerc, De Montigny, Taburo De Montigny, e poi parallelamente a questo gruppo qua di rivoluzionari vi era una società, la società delle repubblicane rivoluzionarie, che per la Francia, la situazione della realtà francese, quasi è considerata una delle prime società di donne realmente rivoluzionari. Non parlo di femministe perché è un termine che verrà utilizzato successivamente, che però pretendevano gli stessi diritti degli uomini anche per loro. All'interno di questo gruppo di rivoluzionari non vi era un'unica idea su come portare avanti la rivoluzione, ognuno di loro aveva una propria individualità, un proprio pensiero critico. Sicuramente l'idea era quello di dare maggior potere al popolo. Quindi, partendo da questo presupposto qua, abbiamo una critica feroce ai nemici della nazione. Sono la maggior parte dei passi e degli scritti di Varley, Leclerc, piuttosto che di Jacquerou, si intitola proprio critica ai nemici della nazione, contro i nemici della nazione, contro chi distrugge la nazione. Questa critica innanzitutto andava a a vedere, ad analizzare quali erano, perché vi erano delle situazioni critiche all'interno della Francia, quindi dove vi era una carestia e perché nonostante vi fossero delle zone in cui vi era una produzione di pane piuttosto che di prodotti agricoli maggiore, in altre zone vi era una carestia enorme e non si riusciva a riequilibrare, quindi a prendere da una parte e portare dall'altra. Come nonostante vi fosse stata una produzione l'anno precedente allo scoppio della Rivoluzione Francese, un'enorme produzione di grano, i granai fossero pieni di grano, appunto, i panifici fossero vuoti, non vi fosse pane per il popolo. Beh, partendo da questi presupposti qua hanno cominciato a formulare alcune teorie. Innanzitutto, secondo loro, e effettivamente potevano aver ragione, i terreni agricoli e la maggior parte dei granai erano di proprietà dei nobili, quindi, come poi si vedrà successivamente, non avevano interesse di spartire equamente i prodotti della terra e il pane, bensì, anzi, in alcuni casi il grano veniva venduto all'Inghilterra, nonostante vi fossero francesi che morivano di fame. E effettivamente i primi obiettivi dei rivoluzionari furono i granai, i primi assalti furono ai granai per riuscire a prendere e a spartire equamente il grano. Ma non solo, c'è stato un tentativo ben riuscito di creare un'inflazione. Alla fine i prezzi lievitavano, ma le persone, il popolo non riusciva a pagare i prodotti. Però vi era chi, per esempio la corte, e soprattutto Maria Antonietta, organizzava feste prima della Rivoluzione Francese, e il popolo questo non poteva concepirlo, non riusciva a capirlo. Seconda cosa, il popolo a un certo punto si è posto un serio problema, perché noi dobbiamo essere governati da persone che si arricchiscono sempre di più, oltre a patire la fame. E quindi hanno incominciato a essere trasportati dall'emotività le persone e ad assaltare i forni, i granai. Bisogna stare attenti però al fatto che, come dicevo, i giacobini erano quelli che si stavano ponendo a capo delle sommosse, quindi molte sommosse sono state affossate proprio a causa loro. Loro avevano chiamato, in alcuni casi avevano chiamato la corte nazionale per bloccare gli assalti ai forni. E un'altra motivazione per cui il popolo non voleva in più un re è perché in precedenza vi era stato un tentativo di convincere il re ad accettare una costituzione. Non era una costituzione che poteva ribaltare realmente la situazione, la realtà della Francia. Una delle prime costituzioni prevedeva il diritto di voto, ma secondo il proprio reddito. Quindi se tu avevi un certo, diciamo così, reddito, potevi votare, se non lo eri al di sotto non avevi il diritto di voto, secondo il proprio censo. Il re ha ascoltato Maria Antonietta e non ha accettato la Costituzione. All'interno, per esempio, degli Anangè, vi era Leclerc che per tutta la sua vita, la rivoluzione, nonostante portasse avanti gli assalti ai panifici e ai granai, ha sempre trattato questo problema qua, il fatto che il re non aveva accettato la Costituzione. Infatti scriverà un trattato, un breve testo, che si intitolerà Il re tra la Costituzione e la morte. Alla fine non ha accettato la Costituzione, il re è andato incontro alla morte. oltre alla critica quindi che fa Leclerc alla, al re, ai comportamenti del re, vi è anche da parte degli Anagé un tentativo di controllo diretto dei, dei delegati, di quelli che poi sono andati a far parte dell'assemblea, del potere, perché credevano che fosse importante che il popolo potesse controllare i delegati e fosse ancora più importante che il popolo gestisse il potere da proprio conto. Perché? Perché non ci si, loro continuano a utilizzano spesso questa, questa parola qua, manca la fiducia, nei loro scritti la fiducia è importantissima, una delle tecniche di quello. Perché secondo loro per poter essere rappresentati bisogna avere, bisogna che ci sia un rapporto di fiducia, e questo non esisteva. Non ci si poteva fidare di un rappresentante, quindi era importante avere il potere di poterlo eliminare dall'assemblea, di metterlo da parte nel momento in cui non, poteva, non, non avrebbe più portato avanti i desideri del popolo. È interessante questo perché? Perché in realtà David Gillet, che è un professore di diritto politico in Francia, ha riportato poi in una conferenza a Aix-en-Provence, in realtà gli Anagé non erano stati scelti dal popolo come propri rappresentanti, ma erano, lui usa questo termine qua, si sentivano investiti di una missione da parte di Dio. Cioè, a un certo punto sono ritrovati a dire, ok, noi non siamo i veri rappresentanti del popolo, nessuno ci ha letto, però noi crediamo che sia importante che il popolo decida da sé. E quindi hanno incominciato a mettersi a capo dei vari movimenti di protesta. La sovranità popolare è importante proprio per questo, perché io posso decidere di quello che mi fa, cioè se una scelta presa da un delegato, da un rappresentante, io non la trovo, non mi trova soddisfatto, io devo essere in grado di ribaltare questa scelta qua. Il rappresentante deve fare quello che io decido. La sovranità popolare è proprio questo, si collega poi all'idea di uguaglianza. Perché? Perché io posso avere un potere diretto di scelta nel momento in cui sono uguale a chi mi circonda, ai miei concittadini. Se non esiste l'uguaglianza tra persone, dicevano, non può esistere la democrazia diretta. L'uguaglianza tra uomini era importantissima, ma come poteva essere stabilita l'uguaglianza? Ebbene, poteva essere stabilita tramite delle leggi. Jacques Roux, per esempio, uno degli esponenti forse più importanti del movimento, in tutti i suoi scritti parla dell'importanza delle leggi. La legge che nasce dallo Stato deve essere a servizio del popolo per costruire e difendere l'uguaglianza tra uomini e, come diranno poi i rivoluzionari, le repubblicane rivoluzionarie, tra uomini e donne. Senza la legge che mette un freno a chi specula chi fa speculazioni sui prodotti agricoli, chi fa speculazioni dal punto di vista economico, chi blocca il trasporto di merci da una parte all'altra della Francia, senza la legge questo, il popolo sarà sempre affossato, troverà sempre maggiori difficoltà nell'esprimersi e nel potersi salvare. La legge, sì, serve, ma la legge spesso può essere raggirata. Il popolo quindi ha un compito, secondo loro, far rispettare la legge. E come? Innanzitutto con la delega, quindi io posso delegare una persona, ma posso anche revocargliela, quindi io posso revocare la delega a chi non mi rappresenta più. Ma non solo, ancora più importante, e viene ripetuto spesso, è l'invito a prendere le armi qualora chi non rispetta le leggi, chi non rispetta l'uguaglianza tra popoli, va contro il popolo. Quindi io sono, il mio compito di rivoluzionario, il mio compito di cittadino è quello di difendere queste leggi qua. prima con l'assemblea, in secondo luogo con le armi. Ed è un invito che viene rivolto sempre. Ma per arrivare alle leggi, ed è un passo che io purtroppo ho dimenticato di fare, a cui fa riferimento a Cremona, e l'ho capito solo dopo, per arrivare alle leggi non serve, cosa serve? L'istruzione all'inizio, prima della Rivoluzione Francese, era un qualcosa di elitario, solo i nobili o chi si poteva permettere l'istruzione aveva, quindi che aveva soldi. Solo con l'istruzione e con l'educazione del popolo si arriverà ad avere la legge. Questo, per arrivare a questo, serve creare delle scuole, delle scuole che possano far crescere i futuri cittadini. Senza scuole il popolo rimane ignorante, senza educazione il popolo rimane ignorante. Se il popolo rimane ignorante è facile per chi è istruito, quindi chi si poteva permettere l'educazione, affossare il popolo e continuare a portare avanti i propri interessi. Questo purtroppo è un punto che ho dimenticato ed è importantissimo, perché spesso si pensa alla rivoluzione, ed è stata una domanda che mi è stata fatta a Cremona, ma se erano, come hanno fatto a fare degli scritti, se erano ignoranti durante la Rivoluzione Francese, la maggior parte della popolazione non era ignorante. Beh, la maggior parte sì, però vi era chi invece sull'educazione voleva puntare molto. Però e lo svilupperò poi nelle conclusioni, vi era spesso si parla della Rivoluzione Francese come anche colei che ha allargato il concetto di proprietà privata all'interno della nostra società. E quindi studiando all'inizio di Arancè mi aspettavo che questo movimento rivoluzionario, che era portatore di un'istanza democratica, di una democrazia diretta, si ponesse anche contro la proprietà privata. Parlava di uguaglianza tra persone, e la proprietà privata spesso è contro l'uguaglianza, cioè sempre chi ha maggiormente, se non è ben gestita. E in realtà poi Varlet delineerà quattro tipi di proprietà. In tutti i Arancè, soprattutto Jacques Roux, parlano dell'importanza della proprietà, della proprietà privata. Parto dal presupposto che io contadino, se io coltivo, se ho io lavoratore tessile, se produco, ho diritto di avere qualcosa di solo mio, anche dei mezzi di produzione, piuttosto che prodotti agricoli, piuttosto che delle case. E Varlet, per esempio, appunto, come dicevo, delinea quattro tipi di proprietà, partendo dalla proprietà del più poveraccio, quindi in quell'epoca del contadino, diciamo così, che ovviamente produceva, fino ad arrivare alla proprietà dell'aristocrazia mercantile. Varlet a un certo punto, durante nel suo scritto dice: noi non siamo contro la proprietà privata. Non siamo contro la proprietà privata neanche dell'aristocrazia mercantile. Se uno è un mercante è giusto che detenga 100, se uno è un contadino e produce 100 è giusto che tenga 100, se uno è un contadino e produce 1 non è giusto prendere 90, cercare di arrivare a un punto di equilibrio tra chi produce 1 e chi produce 100, no, uno produce 100, uno produce 1. E questo è strano perché va a impattare con altri suoi scritti o con altri membri degli Arancè, che invece volevano un'uguaglianza. Taburo de Montagny, che la cui unica, diciamo così, funzione e unico scritto è inerente all'economia, ed era un avvocato, quindi faceva parte di una classe già ben superiore rispetto a quella contadina, nelle sue misure per risollevare la Francia dal torpore della crisi economica parlerà di prendere la dai ricchi e di dare ai poveri. L'unica maniera per riuscire a dare l'uguaglianza era di stabilire l'uguaglianza economica, quindi l'uguaglianza sociale derivava dall'uguaglianza economica. Era l'unico Erangel che parla effettivamente di togliere i ricchi per dare ai più poveri. E su questo, da qua, rispetto al tabulò di Montigny, si farà forza anche la società delle repubblicane rivoluzionarie. Nel loro manifesto, per esempio, partono descrivendo la situazione della donna. La donna è colei che gestisce i conti di casa, quindi chi meglio di lei può gestire i conti del proprio paese? Solo la donna. E partendo da questo presupposto, la funzione, il ruolo che più ruolo, non la funzione, il ruolo che hanno investito le repubblicane rivoluzionarie è stato proprio quello di il ruolo economico, quindi capire chi deteneva il monopolio economico sul pane piuttosto che su determinate merci, requisire quelle merci per darle ai più poveracci. Come ho fatto riferimento a Cremona, faccio riferimento anche oggi a un romanzo che è stato scritto da Wu Ming, si intitola L'armata dei sonnambuli. È un romanzo che fa riferimento, si basa sulla storia di tre personaggi, uno dei quali è una donna, che comprava a poco prezzo la stoffa più scadente dalle grandi boutique per fare i vestiti alla classe media. A un certo punto della storia incontra proprio questa società delle repubblicane rivoluzionarie, che quando sono nate racchiudeva semplicemente le donne della media borghesia, non dell'alta borghesia, della media borghesia, e solo verso la fine della rivoluzione francese è riuscita ad aprirsi anche alle donne del popolo, diciamo così. Purtroppo, come spesso accade anche ai giorni nostri, non sono state considerate più di tanto queste rivoluzionarie qua. Ogni volta che entravano, per esempio, all'assemblea, venivano cacciate fuori, oppure venivano posti davanti a loro altri gruppetti di uomini. Gli unici che se la sono filata sono stati gli Angers. È durata questa società qua fino alla fine della rivoluzione, e per me la fine della rivoluzione coincide con l'instaurazione del terrore, perché è stato il momento in cui i giacobini e soprattutto Robespierre ha incominciato a tagliare la testa non solo ai nobili, ma anche a chi si permetteva di criticare i giacobini e Robespierre. Infatti la maggior parte degli anarchici sono finiti in proprio sotto il terrore. L'unico che è rimasto in vita e cambierà purtroppo le proprie idee sarà Barlet, che supporterà poi l'impero napoleonico successivamente, quindi ha avuto proprio un cambiamento di pensiero. Perché ho scritto questa tesi? Perché proprio all'inizio, nel cercare di capire chi fosse questo Erangel, avevo letto alcune affermazioni che non mi convincevano più di tanto. L'affermazione di Marx che li indicava come dei marxisti, da Woodcock che li parlava come dei anarchici, e ho cercato di, studiando appunto il loro pensiero, di capire se si potevano ricondurre a uno piuttosto che all'altro, se si poteva considerare un partito piuttosto che un movimento. E io credo, e l'ho inserito nella conclusione, che parlare di marxisti piuttosto che di anarchici in un periodo che viene prima dei pensatori più importanti, dei pensatori che hanno dato vita al pensiero marxista e quello anarchico, Io sinceramente non me la sono sentita dire erano marxisti piuttosto che anarchici, erano dei rivoluzionari come sono sempre esistiti, erano dei uomini del popolo che hanno deciso di cambiare la situazione propria e del popolo, e che si sono presi questa responsabilità qua. Per collegarmi all'attualità, in realtà ci si può collegare all'attualità, esiste un gruppo in Francia che si chiama Les Anarchistes, e tu magari lo conosci, ne hai già sentito parlare. No, no. Ne hai sentito parlare. Che si richiama questa esperienza qua e che si inserisce all'interno delle più grosse manifestazioni francesi, come sempre in testa. In realtà non sono una realtà strutturata, però si conoscono, diciamo così, si dialogano sul web. Le sanace sono gli antesignani di Beppe Grillo. Era prima quando tu li raccontavi mi chiedevo proprio le cose. Ma direi che vorrei vedere in realtà Beppe Grillo in una manifestazione di protesta e qualcosa di rivoluzionario. Beppe Grillo raccoglie anche delle realtà talmente differenti e già consolidate che sinceramente non penso possano riferirsi a quello che è successo all'epoca, cioè non siamo all'interno di un processo di un momento rivoluzionario. Ah, vorrei vederlo. Antesignani significa che sono coloro che a cui per esempio il Movimento 5 Stelle richiama tantissimo fortemente i principi base, no? Della rivoluzione francese, si richiama fortemente a quello con tutta una serie di anche il discorso che facevi rispetto al controllo, per esempio, della delega, del mandato di delega, sì, sì. È un qualcosa che loro costantemente richiamano, anche se poi nella realtà. Sì, perché c'è questo discorso però legato alla tecnica, fondamentalmente alla democrazia diretta che passa tramite il controllo della manca politica. L'azione diretta. Anche, Manca secondo me l'azione diretta all'interno dei movimenti. Dei è movimenti. Più chiaro la suggestione. Però l'unico momento della democrazia moderna dove il popolo ha saputo intervenire direttamente su un voto è successo in Italia, è successo tramite un voto del 5 Stelle, perché quando c'è stato il voto sul reato di clandestinità, Grillo era a favore del reato di clandestinità, anche Casaleggio, e c'è stato un voto in rete e la maggioranza delle persone del movimento hanno votato contro e i deputati del Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Sì, sì, io ed è l'unico esempio nella democrazia moderna di un voto diretto di un popolo, cioè non di un popolo, diciamo di una parte del popolo su un argomento del genere. Sì, non una difficoltà in realtà, a poter dire. Cioè, diciamo che tecnicamente, stiamo parlando di tecnica. Sì, no, nel senso di poi però è successo così. La teoria deve essere sempre supportata. Cadremo nelle illusioni di usare di 5 stelle la tecnica neutrale, cioè. Nel senso, ci hanno avuto diversi fatti in pancia, per volontà. Certamente. Nel senso che Grillo, poi non è che poteva buttarli fuori tutti, però la posizione di Grillo e Casaleggio era a favore. Gli altri hanno espresso un'altra cosa, diciamo che e non hanno adattato un po' la faccenda, ancora quella è tutta annacquata in realtà. Secondo me ha conferma del fatto che quella lì è un'illusione, una sciocchezza assoluta pensare dei processi, diciamo, democratici di poi governare tramite quella cosa, cioè tramite il controllo della rete internet, cioè sì. In cui con un click tu praticamente dai il tuo benestare a qualsiasi cosa. Cioè, in realtà ci sono un sacco di realtà che possono essere di quelle che fare le urne, che fanno una maglia di democrazia. No, è perché non è via del tempo. Certo, ho capito che il discorso è quello che riguarda lo stare all'epoca. Piazza, lo stare sulla barricata, era fondamentalmente l'assalto al forno, era la, diciamo così, anche di gestire, certo, il territorio. È chiaro che in una situazione rivoluzionaria come quella è il discorso della piazza. Io più che altro mi riferivo in termini, come dire, di riferimenti politici, cioè quando io sento parlare delle, come hai detto tu, a me comunque ribadisco che mi vengono in mente le Sarajevo, li vedo come forse una parte del movimento un po' più attento a determinati principi, che erano i principi di riferimento, valori di riferimento della rivoluzione francese, che erano libertà, uguaglianza e fratellanza, se non ricordo male, fraternità, non so come pronunciarlo. E questi tre riferimenti erano erano tre valori che dal loro punto di vista erano valori universali, a cui si richiamavano, correggimi se sbaglio perché veramente faccio corso agli studi del liceo, quindi non potrei dimenticare, però si rifacevano a questi tre principi di libertà, carità e fraternità, si facevano i giacobini, se non ricordo male, come anche erano parte di un'altra categoria che poi non ho mai approfondito gli studi, che era per esempio anche i Sanculotti avevano questo tipo probabilmente di riferimento. Durante il periodo rivoluzionario c'erano differenti cose. Le Sarajevo, come me lei raccontai un po' che non conosce, mi sembrano quelli che stavano più attenti a certo tipo di purezza metodologica, no? Nel portare avanti il discorso. Per quello, ribadisco che anche se non c'era una pratica di azione diretta oggi che è espressa dal Movimento 5 Stelle, però il Movimento 5 Stelle oggi esprime fortemente un ricollegamento tra l'idea di cittadinanza e questi principi di cui credo. Sì, anche nel conto che si tratta di un sostanziale partito, nel Sarajevo erano un gruppo di individui che possono essere inseriti all'interno di un'unica realtà, in quanto ci sono dei collegamenti teorici. In realtà poi ognuno, leggendo i vari iscritti, ci sono anche proprio delle discrepanze di chi è a favore di uno Stato e di una monarchia costituzionale, come De Klerk, chi invece vorrebbe suddividere, come è il primo Marie, vorrebbe suddividere la Francia in vari distretti e i vari distretti suddividerli ancora in realtà più piccoli. Leggendo in realtà Marlene e dividendo un po' la situazione del Kurdistan, ci si potrebbe trovare un legame, nel senso lui fa riferimento alla prima comune, Marlene, parigina, e alle suddivisioni della comune, come venivano gestiti tramite i vari gruppi di cittadini, e vorrebbe una Francia suddivisa in questi termini, a livello di distretti, a livello di piccoli territori. Quindi dire che in realtà non riesco a fare pensare che abbiano un pensiero che poi viene ripreso da loro. Perché comunque significa considerare innanzitutto le Sarajevo come un unico gruppo che meno male portano avanti una stessa idea. Cosa che in realtà non è così. Sono considerato un unico gruppo, come ho detto, in quanto Robespierre e i contemporanei li hanno considerati un gruppo unico. Mathieu li considera un partito. Però in realtà avevano degli interessi in comune. Valier non era uno stato francese. Però c'era un nome che li identificava. Sì, ma che viene utilizzato innanzitutto dai loro contemporanei, perché li vedevano come vedevano che vi erano delle affinità, e secondo me anche per riuscire a raggrupparli e per poterli poi affossare in un momento migliore. Forse l'errore di fondo è cercare di assegnare a loro una categoria che conosci oggi. Sicuramente. Nel 1989 parlare di anarchia o di marxismo era effettivamente prematura. Invece c'era il relativo che è una cosa del... Bilancio probabilmente ci sono i semi propri di tutte queste cose, in uno e in un altro. Quello che volevo anche sapere io, numericamente all'interno dell'assemblea, scusa Marco, numericamente quantificati in quanti pseudo delegati su un totale erano una forza o erano un gruppetto spiccolo? Era un gruppetto spiccolino, sì. Non sono neanche arrivati all'assemblea. Scusate, ho finito. Cioè, in realtà è interessante più la parte delle domande, perché effettivamente tira fuori i dubbi, è la cosa più importante. Per esempio Jacques Roux, diciamo che per come nella sua storia di prete rivoluzionario ha avuto un momento di, secondo me, ha incominciato a puntare sulla democrazia diretta, sul potere diretto del popolo, anche per una rivincita, perché non è stato eletto rappresentante del popolo nell'assemblea. Ci ha provato, non c'è riuscito. Facevano parte di quella classe, non erano san culotto, non era un po' il popolone, era chi aveva già un'istruzione, sapevano scrivere innanzitutto, e come ho detto, se tu sai scrivere non fai parte del popolo basso, non sei popolone. Un avvocato, come ti ho detto, e le repubblicane rivoluzionarie erano altrettanti. Nel momento in cui sai scrivere, vuol dire che è un'educazione. Quello che hanno fatto il primo manifesto sui diritti delle donne, Posso chiedere tu una cosa? Delle donne, alcune parti abbastanza, ma secondo me nella tua materiale non esserci, vero? Che qualcosa è rimasto. Perché sono molto interessanti, trovo. Io ho detto che non abbiamo femministe perché non sono femministe, perché si usano. Termine è bellissimo, termine assolutamente non utilizzato al tempo, quindi anacronistico, però quando loro dicono che noi ci possiamo, il popolo si può armare, ma che le donne se vogliono, il primo articolo del loro manifesto, sì. Ma che le donne se vogliono possono anche non armarsi, vuol dire che rivendicano un modo di fare politica e di stare nella società che è al femminile. Quindi qualcosa di diverso rispetto al comportamento maschile, rispetto agli attributi classici maschili che sono quelli di portare. Questo mi sembra, questo è molto femminista, anche se... Cioè, scusa, non credo, rivendicano la libertà di scelta. Rivendicano la libertà di fare le cose al femminile, cioè dicono le donne, articolo 1 del loro manifesto, della loro... E poi il fine della società avendo il progetto armarsi per contribuire al futuro della pace, le cittadine sono tuttavia libere di armarsi o di non armarsi, cioè possono farlo o non farlo. Armarsi, libertà di scelta. Libertà di scelta, ma la libertà di scelta è femminile, cioè le cittadine che sono insomma, le classici orientamenti e femminista. È una politica declinata per le donne e dalle donne. Non voglio vederci più di quello che sono, ma mi sembra, e soprattutto sono economici in senso non moderno, e al contempo il fatto che insomma qualcuna di loro non esita ad usare la violenza. No, infatti. Non esita ad usare la violenza che hanno fatto le donne durante la guerra, durante le resistenze, sì, ma le donne storicamente hanno fatto le armi. Durante la rivoluzione fascista, bisogna portare agli esami questo. Durante la rivoluzione francese, infatti, lo fanno suscitando il massimo delle rivoluzioni. Sì, si presentano alla convenzione dichiarando che avrebbero preso 300 picche per difendere i diritti delle donne, ma il diritto dei francesi. Sì, parlavano di donne, ma in realtà poi. Sì. Fa riferimento ai francesi. La dichiarazione dei diritti dell'uomo in realtà è una dichiarazione sessuale. Le donne però hanno sperato che invece Ah sì. Interessante. Ah, sì. Poi c'erano dei legami personali, mi sembra di capire. Sì, tra Leclerc e Claire Lacombe. Leclerc aveva un rapporto con Claire Lacombe, sì, quindi sì, un rapporto stretto tra i due. E... addirittura se non c'è un po' si sposati. Sì, esatto. Però questo mi sembra un aspetto molto interessante di questa vicenda, perché io adesso francamente concordo con quello che dici tu, erano un gruppo di persone molto diverse tra di loro, certo della media borghesia, perché erano tutti istruiti. Sì, ma di più, insomma ben più che altro mezzità, altrimenti non avrebbero avuto la capacità di concepire delle idee complesse. E sono un gruppo di gente che viene chiamata la tragedia, quando leggo, in maniera quasi per scrivere, in maniera migratoria, sì, perché gli arrabbiati sono quelli gli arrabbiati. Sempre da dire, sì, ma gli arrabbiati nel senso comunque devono essere solidari, no? Sì, sì. Da quanto si legge, quindi è una definizione che gli hanno dato i contemporanei, che noi continuiamo ad usare perché sono meno di un partito. Mi stupisce che molti siano sopravvissuti, parliamo, non è così, insomma non hanno tagliato la testa a tutti. Ma hai più importanti, tu si è suicidato. Varlier, che è uno dei più importanti e che... sopravvissuti, però fino a non... Woodcock considera, ad esempio, Varlier uno dei primi anarchici, addirittura, e un suo testo d'Explosion che... Vabbè, dovrebbe esserci... come ha anticipato... Sì, Woodcock... Lo... Io adesso non ricordo, mi sembra che l'ho letto 40 anni fa, uno dei primi libri che ho letto sono... Explosione. Se parli di anticipatori, cioè. Sì, ne parla. Non è ancora definito il concetto di anarchia. Cioè. No, ma infatti Woodcock però nel libro non parla in realtà di anticipatore, cioè parla di anticipatore. Proto anarchici. Però fa riferimento a. Gli accosta molto al pensiero anarchico. Sì, e, sì, anticipatore. E l'Explosion, lui parla dell'Explosion come uno dei primi testi anarchici europei. Perché? Perché spinge alla rivolta. Sì, sì. Woodcock fa questo riferimento qua, parla dell'explosione come... Ne parla singolarmente, cioè giustamente dice, non vanno considerati come un movimento, no, esatto. Dire, sono l'anticipazione del movimento anarchico. Sono personalità separate che hanno... dei rivoluzionari. Che vengono messi assieme dai loro avversari. Sì, è un aggruppamento così. Che non aveva simpatia per loro, evidentemente, che considerava degli scocciatori al meglio, insomma, nella migliore delle ipotesi, e ognuno di loro aveva le sue idee. Quindi, probabilmente, questo testo che non ho letto, che non posso giudicare, va riportato fra, come fa Woodcock, che è uno che sono di fra i precursori dell'anarchismo, gli altri. No, quindi vanno indagati come tu fai del resto, come imposti giustamente la cosa singolarmente, piuttosto che visto che un partito ne è un movimento, poi tra l'altro non arrivano nessuno da quanto capisco alla convenzione, no, ho aggiunto c'è quindi stato qualche incontro sporadico tra di loro, si sono riusciti a incrociare ogni tanto nelle assemblee delle città, dei territori, ma neanche fra tutti, non hanno mai avuto un punto di riferimento intorno a cui girare oppure... Sì, quindi hanno loro una conoscenza... No. Varley a un certo punto dice io non conosco lui, non voglio essere, sì, non voglio essere avvicinato a lui, quindi prendiamo un peso di distanza. Sì, sia un po' come quando oggi, per un po' la traduzione dei ragazzi qua. La posizione è che quando la stampa parla di antagonisti, tutti quelli che non sono, diciamo, ce l'ha. Pensiamo alla rivoluzione come anche se la situazione è cambiata, ma una manifestazione, c'è il sindacato, c'è il partito, c'è il sindacato magari autonomo e poi ci sono tutti quelli che non sono quelli, sono gli antagonisti. quelli che può fare male. Però non erano violenti, non erano violenti loro. No, non esercitavano la violenza. Quello che si può dire è che Roux, come prete, ha incitato spesso i contadini alla rivolta. E in più di in qualche caso si è ritrovato con la spada in mano a portare avanti i contadini nelle rivolte. Alcune fortezze francesi sono state assaltate dai contadini con Roux a fianco. Barlet allo stesso modo, Barlet si ritroverà poi all'interno, viene accusato di aver assaltato di panifici, di granai, così come anche le repubblicane rivoluzionari. In molti casi si sono trovati in realtà a capo, non a capo no, perché dicevo, la storia poi viene sempre scritta da come la si violenza è la parte più grande della rivoluzione. Interessante è che quando è stato bloccato però l'ondata, la massa è andata a bloccare il re grazie alla spinta della società delle repubblicane rivoluzionarie. Sì, la maggior parte dei moti di assalto ai forni e ai granai è partita proprio dalle donne. E questo è andare a mangiare. Esatto, è molto bello nel romanzo, quello di Bouning, si descrive questa, racconta la storia di questa donna qua, del popolo che aveva il marito, gli era morto in guerra contro i prussiani, e lei doveva mantenere il figlio, non aveva modo, perché non ce la faceva vendendo gli abiti. A un certo punto, insieme ad altre donne, ha deciso di assaltare i forni e i panifici che facevano la cresta sul prezzo. Certo. Ah, sì. Ed è molto bello. In età più vicina a noi, doveva fare la spesa forse. No, ma infatti, e abbiamo i figli a casa che aspettano. In quel romanzo lo descrive molto bene, la parte secondo me che descrive maggiormente la realtà poi gli Ming fanno sempre dei bei lavori, dei bei studi a livello storico, per descrivere la società delle rivoluzionarie, delle repubblicane rivoluzionarie, io consiglio di leggersi solamente quel pezzo lì, quelle parti lì del romanzo. Perché effettivamente gli uomini, bisogna dirlo, senza le donne sono nessuno. Almeno nella rivoluzione francese è stata così. Sono Ma che si risulta a femmine che avevano ripreso sta roba, non ce n'è. Che l'abbiano indagata. Indagata, no. Cioè indagata, approfondita, cioè lì c'è un qualcosa che e poi si perde, diciamo. Sì, la società viene sciolta. Poi secondo me nella storia ci sono sempre state delle donne che hanno portato avanti la voglia di... Sul ruolo delle donne nella rivoluzione francese, sì. In Francia ci sono... Negli annali sulla rivoluzione francese ci sono un bel po' di articoli. Ma se la donna, una domanda, se la donna comunque ha sempre avuto un ruolo all'interno della famiglia, no? Cioè la donna storicamente è sempre stata molto sfruttata, ecco, dove veniva la comunicazione tra donne al punto da arrivare a un determinato comune così forte, così di rilievo? Cioè, perché mi viene spontaneo pensare oggi cosa c'è che non va, no? Come mai oggi non accade nulla, come mai oggi la gente è sempre più chiusa e invece ecco, ma quella comunicazione lì che era meno, diciamo, sicuramente aveva meno possibilità di fare affidamento su strumenti, no? I mezzi tecnologici che abbiamo noi oggi, il computer, il cellulare, il telefono. All'epoca queste cose non esistevano, eppure riuscivano a trovare delle forme di comunicazione talmente diciamo incisive da portare ad azioni incisive. Ma bisogna anche nella strada. Bisogna tenere conto che le città una volta erano. La strada che manca è la strada l'unica via di comunicazione che non ha storia, non ha mezzi, non ha strumenti. La comunità, non ha cioè il verbo, il fatto che mi serve e il vicino fa parte dello step d'azione. Sì, poi le grandezze delle città erano differenti. La storia è la strada, la rivoluzione è la strada. Poi io sono d'accordo con quello che, secondo me, la cosa che mi interessa del suo racconto e della sua attenzione è di un gruppo che lui non giudica se sia positivo o negativo, ma di un gruppo, di una realtà che cioè è al centro tra chi sta facendo una rivoluzione e il potere da battere. E quello, anche se magari è un gruppo elitario, intellettuale, non si capisce bene che cosa sia, ma è sempre la strada, è comunque quel luogo che è l'osservatorio. Quindi lui e le donne insieme ai compagni e alle persone che osservano la quotidianità, perché non sono solo le donne che alimentano i propri figli, anche questo è un luogo comune che a me non piace da parte delle donne. Ci sono degli individui che sostengono la parte minore, cioè nella parte minore c'è anche la propria sopravvivenza, oltre che al minore che deve crescere, che sono le persone che il luogo comune è la strada, che porta dal alto borghese intellettuale all'operaio, a quello che non sa fare un cazzo, e mettersi d'accordo è l'osservatorio che guarda. E a volte riesce a tirare fuori dei testi, qualcuno da fuori fa documento di queste piccole realtà sporadiche. Di tutta quanta la storia, a me piace che a volte la rivoluzione sì, è stata citata più volte, ovunque, testi, cose, è stata addirittura abbandonata, cosa che quando mai l'opinione pubblica è a favore di una rivoluzione, a me non mi ha mai convinto sta storia. Cioè l'unico caso che viene giustificato è la rivoluzione francese, tutti erano matti, sì. Però è vero, cioè, ma perché? È un altro potere che ha preso un altro potere. Sì, infatti. La scoscioglimento, poi non è vero, lui ha fatto molto bene riferimento a questo tipo di dominio, che è un tipo di fantasia, però ha una base documentale. Allora tu citavi Lacan, no, ecco, per esempio lei non è soltanto un prodotto della strada e del collegamento con la strada. È vero che queste donne erano saldamente inserite in una struttura familiare che è quella tradizionale, deve occuparsi dei figli, però cos'erano? Erano anche produttrici, attenzione, a cominciare da Lacan, dicevi il lavoro che faceva, le tricotese che lavoravano mentre venivano i capitati, cioè non è che le facessero, sperduzzassero per... Era una produzione, la produzione pre-industriale, diciamo. Quindi quelle donne a cui tu fai riferimento erano anche inserite già in un meccanismo, che era un meccanismo di produzione, sì, sì, che avevano un collegamento e un rapporto anche con, diciamo, l'universo maschile, che avveniva proprio anche sulle basi di un loro intervento in un processo di produzione. Attenzione, che non è così che... E lì c'avevano anche gli strumenti di comunicazione, ovviamente. Ripeto, se non avete letto, leggetelo questo libro anche di Moumin, perché effettivamente ha fatto molto molto bene. Sì, sì, sì, ma... fatto molto molto bene. Di fantasia, però poi a partire dalle... Poi volevo dire un'ultima cosa e mi taccio. È ovvio che Marx fa riferimento, diciamo, dice quali sono gli anticipatori del comunismo. Parla di Babeuf, parla di Bonaparte e della cultura e della congiura dei quali quindi si va già oltre, non tanto il nome Agir, però è ovvio che lui li nomina. Sì, certo, li nomina, perché ricerca tutte queste radici, però è chiaro che non è possibile per 1793 a Parigi andare a trovare chi era marxista, chi era anarchico, chi era una sua cosa, chiaramente non. Anche perché la struttura sociale allora non aveva, non era ancora quella a cui fa riferimento Marx nel Capitale, cioè già la rivoluzione industriale. Quindi è chiaro che tu antecedenti li puoi trovare, certo, ci sono delle tradizioni politiche che si fondano, anche per quanto riguarda le donne, mi stupisco che nessuno abbia tirato fuori la Comune e Louis Michel, per esempio. In Francia la persecuzione è quella lì, c'è tutta una tradizione rivoluzionaria che va poi alla Comune, l'apice è la Comune di Parigi, poi. La Comune di Parigi è lì che la Francia va in massimo da questo punto di vista, dopodiché ci sono anche circostanze. C'è tutta una tradizione, la tradizione di movimento femminile borghese e movimento femminile proletario, che poi si intersecano, si combinano, si litigano, eccetera, eccetera, come per quanto riguarda la classe lavoratrice nel suo insieme, ci sono tendenze, eccetera, però appunto pensiamo soltanto cosa sono, se vogliamo parlare di donne, qual è la presenza delle donne nella Comune di Parigi, a parte Louis Michel. Sì, sì, sì. Ma più che altro rispondere al dubbio su dove, come facciamo a comunicare, innanzitutto bisogna tenere conto che già Parigi era ben più piccola rispetto adesso, quindi nel senso, la conformazione delle città era differente, permetteva di vedersi o in strada o in piazza, ma soprattutto anche in determinati locali che erano le società che li ospitavano. Loro avevano come punto di riferimento, al di fuori del lavoro per poter portare avanti la famiglia, questi luoghi qua. È come se noi prendessimo qualche parte di Genova e vi mettessimo una piazza e tutte le donne dei dintorni andassero, dovessero andare, confluissero lì, perché non c'era altro spazio di aggregazione. La piazza o il locale faceva da punto di riferimento. Tenendo conto appunto che Parigi non era enorme all'epoca, era grossa, ma non era enorme. E se noi dovessimo togliere qualunque cosa che possa distogliere l'attenzione, mettiamola così, dalle nostre case, lasciassimo solo le piazze, probabilmente vedremmo che nelle varie piazze il circondario sarebbe tutte le donne, sarebbero qua sotto, o piuttosto, se non le donne, gli uomini. A fine giornata lì vai, lì parli e lì ti confronti. Poi nei momenti critici vi era la campanellina la campana o il cannone che sparava la salva per un'aggregazione maggiore, e tutti confluivano in una determinata città, piazza, o piuttosto vi erano ben decise delle giornate in cui la società dei repubblicani rivoluzionari, piuttosto che i giacobini, i montagnardi o i cordiglieri, si vedevano. C'erano delle riunioni operative, perché comunque erano dei gruppi che facevano parte dell'assemblea, quindi dovevano decidere cosa portare all'assemblea. Di momenti c'erano. Se dovessimo togliere tutto quello che abbiamo nelle case, lasciare la piazza sarebbe... ma dovessi togliere le forze del caffè. Sì. Ancora fino a 50 anni fa, se uno pensa, se lo cadasse, la piazza c'è, la piazza non è chiusa in casa. Esiste una... Sì, sì, sì, no, è una parola talmente messa in comunicazione. Ma io penso... Io penso venendo lì da un quartiere periferico ben piccolo, cioè è facile pensare che lì in una piazza le persone potessero arrivare, o comunque fanno ancora le feste a Praga di Lione, quindi nel senso se una strada faceva parte di un rione, lì c'era quella piazzetta e tutte le persone confluivano lì. Poi vi era chi si confrontava con gli altri. Con gli altri. Secondo me, se vogliamo proprio, visto che il tema è quello della dominazione, c'è un altro elemento che andrebbe sottolineato, che è un elemento che è prima della comunicazione stessa, che è il bisogno della comunicazione. Quando c'è bisogno di comunicare, come un luogo, cioè puoi trovare pure spaziando in un luogo di comunicazione. Cioè, sì, sì, sì, ma infatti. Il punto, il problema è chiaro che lì, durante il periodo antecedente alla rivoluzione, allo scoppio della presa della Bastiglia, tutto più. Allo scoppio della rivoluzione francese e successivamente tutto il periodo durato della rivoluzione francese, bisogno di comunicare c'era tantissimo, probabilmente come in tutte le situazioni sì. Pre-rivoluzionarie o rivoluzionarie. In Wuming, facendo riferimento a questa ragazza qua, quando a un certo punto si devono radunare in una piazza tutti i parigini, lei va a chiamare tutte, porta a porta tutte le sue compagne. Quindi l'idea che una ragazza possa fare, un ragazzo possa andare a chiamare porta per porta ti può portare a pensare che non era, cioè non si faceva da una parte all'altra di Parigi. Quindi nel senso, se io faccio riferimento a una piazza, chiamo, vado a chiamare chi è nel circondario. E io faccio gruppo con quelle, faccio gruppo lì. Infatti, verso la fine della storia, lei incontra questa società che poi si capisce bene, si può capire che è la società delle repubblicane rivoluzionarie. Ma fino ad allora lei non le ha incontrate, perché facevano parte di un'altra zona di Parigi, non era quella frequentata da lei. Quindi erano quelle, era la piazza, la strada, i locali, si chiamavano. Non farei niente. Nel caso di oggi sono riferimento più totale e assoluto, probabilmente, cioè, beh, evidentemente sì, perché forse le motivazioni ce ne sono di più per adesso, no? Sì. Però forse assolvono il marketing. Forse assolvono il marketing, non sono tutti quelli esigenti, cioè. Ci sono assai. Ma ci sono una serie di motivazioni per cui non, cioè, all'epoca si è fatta una cosa e adesso non si fa, nel senso non si può ricondurre solo a quello. È importante capire qual è la forza. Ma anche lì, cioè, la nostra volta c'erano delle idee che circolavano, come diceva Kropotkin, nella rivoluzione si fanno due condizioni, quando c'è l'avanzavolta e quando c'è l'intendente. Esatto. Se c'hai una dei due elementi che mancano, e secondo me. Infatti, alla fine la prima idea. L'idea. Lì nel 1890 e 1789 c'erano le due condizioni. Pancia vuota e buttare giù. Diciamo, è stata la prima, era l'idea. Nel momento c'era, in cui c'era anche un movimento teorico-filosofico grosso, grande. Sì, che però il po', cioè, chi ha portato avanti la rivoluzione non era il movimento filosofico, certo, cioè, erano i contadini. Le cose arrivavano. Perché quando erano i contadini che sono presentati davanti ai nobili e dire ok, io prendo possesso del tuo feudo, io prendo possesso del tuo castello, tu esci da questo castello ed emigra. Io prendo il possesso delle tue terre, erano i contadini. L'idea iniziale era quella di abbattere il re e la nobiltà. Quando è venuta meno. I contadini è abbastanza rivoluzivo, perché infatti se c'è un ruolo preciso della legge francese è nella rivoluzione. Sì, sì, sì, ma no, ma aspetta, la rivoluzione è iniziata con la rivolta dei contadini, eh. Poi, in un secondo tempo, quando ho incominciato a vedere la rivolta dei contadini, allora l'aristocrazia mercantile ha preso la situazione in mano e ha ribaltato la sorte. E noi facciamo sempre riferimento al 1789, ma in realtà gli anni precedenti sono connotati da una serie di rivolte contadine. Cioè, dobbiamo renderci conto che è nato dai contadini. Che hanno incominciato a pretendere di gestire le terre da proprio conto, senza dover dare i tre quarti della produzione al nobile. Poi allora a quel punto l'aristocrazia mercantile ha fatto. Ma la rivoluzione francese non è una rivoluzione proletaria, è una rivoluzione borghese. Cioè, sì, sì, sì. Perché? Perché? Però, perché nel momento in cui. Nel momento in cui. Perché nel momento in cui. Rimangono senza rivoluzione. Esatto, perché nel momento in cui è venuto meno il re, quindi è venuta meno l'idea, quando è venuto meno un potere, c'è un altro potere che deve sostituirsi. E chi poteva farlo? Il terzo stato. Ma il terzo stato, la rappresentanza del terzo stato era la parte borghese. Succede. Cede e un altro si sostituisce, non è che lo comanda Dio. No, non lo comanda Dio. No, non lo comanda Dio, diciamo, però... Dalle nostre parti c'è un guiato, sì, esatto. Sì, però è, purtroppo è sempre storicamente sempre stato così. Beh, la maggior parte delle evoluzioni sono andate a saltare qua. Infatti. Però... Volevo farti una domanda su una parte precisa che hai sviluppato, che praticamente era l'idea di criticare l'idea della rappresentanza. Mm-hmm. Di una cosa che non potrei controllare. Io sono francese e diciamo che abbiamo nelle nostre lezioni a scuola una parte enorme sulla rivoluzione francese, però c'è una parte che è veramente non viene mai, anzi due, però una che corrisponde a una cosa che dicevi prima, che c'è stato un dibattito su quello che poteva essere il mandato, o il mandato rappresentativo, o il cosiddetto mandato imperativo. Mm-hmm. Quindi o mi rappresenti, ti do un voto e poi per un tot di anni decidi al posto mio, o ti elego per una missione ben precisa. La rivoluzione francese ha deciso di non portare avanti il concept di mandato imperativo. Cosa ne pensavano le Roger? Beh, guarda, ti leggo un passo di Vadlier che secondo me risponde proprio a questa domanda. Poi la mia diretta, quello che secondo lui è la sovranità delle nazioni, no? Dice nell'articolo 10, allora, Vadlier individua la sovranità delle nazioni come un'entità divisa in 8 parti, ugualmente distinte le une dalle altre, che è il diritto che hanno gli uomini in uno stato sociale. Inizia di eleggere senza intermediari tutte le funzioni pubbliche, di discutere gli interessi della società, di esprimere singolarmente dei voti e delle intenzioni, collettivamente delle volontà ai mandatari incaricati di proporre le leggi, concorrendo così di persona alla loro formazione, di revocare e far punire i delegati che tradiscono gli interessi dei loro committenti, di verificare la necessità dei pubblici contributi, di acconsentirvi liberamente, di seguirne l'impiego, di determinarne la quota, la ripartizione, l'esazione e la durata, di domandarne conto a ogni pubblico funzionario, amministratore, agente, depositario dei denari nazionali della sua gestione, di esaminare, rifiutare e sanzionare i decreti proposti dai mandatari in modo da dar loro la forza di legge e mandarli in vigore. Il diritto per la totalità dei cittadini di uno Stato di rivedere e di fare, modificare, cambiare il contratto sociale quando loro avranno. Quella parte lì non viene mai assolutamente spiegata in classe, perché per noi la sacrosanta rappresentazione del popolo è una cosa intoccabile. Arrivato a un certo punto non se ne parla, cioè, l'idea che ci poteva, che potesse essere un'alternativa, questa cosa non viene adesso ci sono dei storici francesi che un po', perché l'idea che in Europa la classe politica è esagerato è ovunque, quindi i movimenti francesi che vedi adesso questa movette, cioè parte proprio da quell'idea lì, che il controllo sui rappresentanti non c'è e che praticamente ora o si va a controllare i rappresentanti o addirittura non ci saranno più rappresentanti o la democrazia non c'è più. Beh, è chiaro che c'è un problema. Questa cosa però, scusatemi, a me, dopo che tu hai letto questa cosa, ancora di più, siccome i testi di quei coglioni, di quei ragazzoni, nel momento in cui mi risolvisco per me, anche per questioni lavorative, è esattamente quello che c'è. La regola, il mandato al delegato è una delle richieste di venire, non subito, non immediata, che questi... ma sono cose che esistono già in America. Certo, ma certo, mai vista, ma è un discorso che loro fanno. Cioè, la democrazia in Europa, questa cosa qui, compresa il discorso del controllo dei conti, là hai citato il controllo della gestione. Quante volte questi momenti in queste le hanno, sono stati là a fare il discorso? Quindi c'è. Ma però capito quello che voglio dire, poi dei riferimenti che loro sono andati a attingeranno comunque alle fonti della rivoluzione francese, e probabilmente io continuo a pensare, dalle cose che tu mi dici, continuo a non togliermi dalla testa la Casaleggio & Company abbiano attinto probabilmente a dei testi e delle fonti di questo. Poi detto questo, allora, però qual è la cosa interessante in tutto questo discorso? Che a livello, se vogliamo dire, a livello proprio di democrazia, cioè uno dei grossi problemi che ha l'Europa come sistema attualmente è che la democrazia non ha più capacità di rinnovamento, e gli unici che possono portare avanti un discorso di cambiamento a livello democratico sono i gruppi che attingono alle radici, della rivoluzione francese, il Movimento 5 Stelle, gli indignati spagnoli e per certi versi anche questi qua di Farage in Inghilterra, che comunque al di là della loro veste razzistica che comunque esprimono, fanno tutto un discorso anche loro che particolare sulla Inghilterra, cioè. Quindi questi movimenti oggi rappresentano quel canale, quella possibile riva d'approdo delle democrazie, altrimenti la democrazia muore. Cioè, ma veramente è già morta. È che la morire. Ma non sono i principi della democrazia, sono invece proprio i concetti di governo, il mondo non governa più la politica, ma sono invece anche le dittature, che ormai il mondo è governato dalle grosse concentrazioni economiche, cioè la stessa politica, lo stato più forte del mondo, gli Stati Uniti, non governa più niente, ma adesso anche il governo di un partito comunista cinese, infatti, sono fantocci. Di fatto governano ormai le corporation, persino le dittature sono in crisi, perché la stessa la turca è soggetta ai diktat delle multinazionali, chiamiamole multinazionali, perché anche le banche. Questa è la democrazia. Ma in effetti facciamo una fatica terribile a continuare a usare un tot di termini che sono privi di significato. Per cui vogliamo forzare dentro, no, alle cose che ci diciamo e facciamo fatica, no? Perché la democrazia cazzo è oggi. Che mi parlo termini che noi non abbiamo già significato. Sono stati difendere una cosa che non si è mai fatto, comunque per ogni altro. Alla tua domanda, cioè, immaginati se tu a scuola dovessi studiare il fatto che c'era qualcuno che si opponeva ai Giacobini, a Robespierre e che voleva... È cambiare un punto di vista. È un gruppo che comunque è studiato, io lo conoscevo. L'unica cosa, sono due punti, adesso ne faccio un altro, poi basta, che sono due punti cruciali che veramente non vengono, diciamo, approfonditi, che sono questo, di dire un rappresentante non per forza deve scegliere al posto tuo, questo l'abbiamo detto, mandato imperativo, lo studi all'università, cioè non ti viene mai detto quando sei piccolo. E poi un altro momento della rivoluzione francese cruciale, che parlavamo di violenza, la signora che se n'è andata diceva c'era il diritto alle armi, e infatti c'è stato un movimento molto forte, che è stato il fatto che la rivoluzione francese è stata fatta all'inizio dalla Garde Nazionale, La gara nazionale era l'armata francese fatta da tutti i cittadini. Tutti i cittadini francesi avevano il diritto di avere un'arma a casa, come i cittadini svizzeri adesso. Era un popolo, faceva parte di un gruppo che si chiamava la Garda Nazionale, che era un gruppo enorme di 100.000 persone armate. Cosa hanno deciso all'assemblea? Hanno detto no, questo non va bene, e è diventato censario, non so come si dice, cioè devi pagare per comprarti l'arma, e quindi solo quelli che potevano pagare l'uniforme, che era carissimo, perché era tutto bello, elegante, l'avevano al pelo d'occetto, era un uniforme da poco, e l'arma. E quindi la Garde Nazionale è sparita. E lì è stato un punto di rottura assoluto della rivoluzione francese, perché i borghi, che erano il cuore della rivoluzione francese, non erano più in diritto di prendere l'arma. Prima avevano proprio quel diritto, e poi dopo questa legge che è passata sono diventati dei briganti. E da quel momento in poi... Come? Credo nel 92, 91, sì, prima della terra. Sì. E comunque quello che ha appoggiato a morte questa legge è Lafayette, perché Lafayette aveva capito benissimo come andava a finire così. Era un guerriero, era un nobile, era un rivoluzionario comunque, perché era una figura molto importante della rivoluzione, però lui ha appoggiato questa cosa e con tutte le sue forze per far capire che se levavi ai borghi, alle campagne, il fatto ufficiale di essere un soldato, non c'era, cioè la rivoluzione diventa veramente borghese. E lì diventa. Infatti, la rivoluzione che canta. Sì, sì, sì, sì, sì, però. In più di uno scritto compare l'invito a. O richiesta all'assemblea o l'invito ai cittadini di prendere le armi e di arruolarsi. Una delle leggi che viene proposta è quella di aprire l'armata, che poi andava a difendere i confini della Francia, a tutti i cittadini e dietro a un compenso. Quindi si proponeva di mandare i cittadini nell'esercito dietro a un compenso, e allora l'obiettivo era quello di difendere i confini, sì, della Francia. Io sono perso, ho dimenticato tutte le cose, ma parlare di cittadini nel 700, alla fine 700, cosa significa in compenso? I cittadini erano... Era un uomo. Cittadino con la rivoluzione francese. Cittadino con la rivoluzione francese è chiunque. Cioè, si perde il titolo di nobile, si perde il titolo di re, e di clericale, e tutti diventano cittadini. Beh, ma anche il ladro è un cittadino. Sì, si chiamano cittadini. Io quando vengo là, io non ti saluto con il tuo nome, ti saluto ciao cittadina. Non si fa più riferimento al re come il re Capeto, diventa cittadino. La famosa Egalité. Egalité è questo. Per cancellare. A pensare che nell'inizio 800 fosse una cittadina al pari della commerciante o... Ma c'è nessuna parità, cioè, era solo una roba di bisogna parlare di cittadino, perché è il termine che loro usano. Cioè loro usano questo termine per chiunque, a livello formale, ma loro parlano di cittadino, usano proprio questo termine. Quindi è giusto usarlo perché loro lo usano. Sì, è giusto usarlo, però è giusto anche considerare che tra la gente c'è anche l'ignoranza che rappresento io adesso, perché se lo dai, perché ogni cittadino ha un senso, probabilmente 200 anni fa o 300 anni fa ne aveva un altro. E allora bisogna anche contestualizzare un altro, se no le parole non significano proprio più niente, no? Non ti richiamano niente alla memoria. Perché parla di terzo stato, di quarto stato, che cazzo significa? Se sono tutti cittadini. Cioè, alla fine è una gran confusione, sono parole che a me non fanno, no? Non suscitano nessuna... È che il problema di quando si tratta della rivoluzione francese è che bisognerebbe riprenderla dall'inizio, quindi spiegare cos'è il terzo stato, il primo, il secondo, il terzo stato, in termini di cittadini. Effettivamente se avessi ripreso quella parte lì non sei riuscito poi a focalizzare l'attenzione su di certo. No, ma effettivamente sono quelle cose di cui tener conto. Uso il termine cittadino come lo usavano loro. Loro si consideravano tutti cittadini per cercare di essere tutti uguali. Poi c'era la prostituta, c'era il nobile, c'era il... Ma che però a un certo punto... tutti uguali? Cioè è un concetto che è assurdo in sé. Però bisognerebbe... Il borghese si è tutti uguali, come la frase che abbiamo letto. Tenendo conto che bisogna inserirsi nella mentalità dell'epoca. Bisogna anche inserirsi nella mentalità dell'epoca. A quel punto, nel momento in cui tu vuoi cancellare la monarchia, non, a parte alcuni, non vedi che una differenza, cioè non si percepiva una differenza tra un cittadino, tra una persona e l'altra. Ma perché loro... questo non lo credo, scusate, ma se il mercante vuole sovrapporsi al nobile, vuole scalzare il nobile, perché non è che alla fine il re diventa antipatico e anche il baronetto, ci saranno dei motivi, no? Però i privilegi erano concentrati nella nobiltà, cioè da me e chi combatte la nobiltà non è il calzolaio, ma in realtà io vorrei soffermarmi su questa parte, perché in realtà, come dicevo, lo scoppio della rivoluzione si riconduce al 1789 circa, si fa partire da lì. Negli anni precedenti vi erano stati dei moti contadini che hanno portato poi ai primi mesi del 1789 all'occupazione, nel termine che usiamo noi, alla presa dei castelli, delle magioni, dei nobili. Quindi era un qualcosa, già vi erano già dei moti contadini. Questi moti contadini cosa han portato? Han portato a una classe, che era quella, la classe di aristocrazia mercantile, dei mercanti, a dire, ok, vi sono questi contadini qua che stanno facendo... che stanno rompendo. Noi, primo passo, proponiamo al re una costituzione, quindi trasformare la monarchia da monarchia assoluta, quindi pieni poteri al re, in una monarchia costituzionale, all'interno del quale noi inseriamo una costituzione che prevede un diritto di voto per censo, cioè chi ha un determinato censo può votare, chi non ce l'ha non vota. Quindi il primo passo del cosiddetto terzo stato, quindi la che faceva, all'interno dei quali vi era la maggior parte era la classe mercantile, all'inizio ha proposto una costituzione che potesse limitare la parte dei contadini. All'interno della Parigi, che poi la maggior parte dei moti sono all'interno, non tutti, però la maggior parte, la parte più rivoluzionaria era Parigi, potrei dire, chi lavorava nel settore tessile, chi faceva il mendicante, che ha visto nei moti contadini un esempio di rivoluzione, di rivoluzionare il proprio status. È lì che ha incominciato a far pressione. La classe borghese, noi diciamo che ha fatto la rivoluzione, perché è riuscita a mettersi a capo, ha riuscito a mettere il cappello politico su questi personaggi qua, ma nelle strade, a mettere paura all'aristocrazia, alla nobiltà, vi erano i padri di famiglia, le madri di famiglia. Quindi Io cercherei, sì, la manovalanza, io cercherei di anche, cioè cercherei di cambiare il proprio punto di vista. Ma la rivoluzione è stata borghese perché poi il cappello sono riusciti a metterlo loro. Gli hanno segato a chi si è opposto a Robespierre e ai Giacobini, alla fine gli hanno tagliato la testa. Quindi, nel senso, è stata borghese perché loro sono riusciti a radicarsi nell'assemblea. È per quello che noi parliamo di rivoluzione borghese. Ma in realtà la rivoluzione l'ha fatta la manovalanza, come sempre. No, no, su questo, senza prendere il merito, senza... D'altra parte è chiaro che il mercante ha più difficoltà per combattere. Sì. Tenendo conto che ormai prende le armi nel 92 e magari mi puoi correggere sui dati, nel 91-92 l'aristocrazia mercantile o la media borghesia, bassa media borghesia, era formata da quei contadini che nei moti prima dell'89 e negli anni e nei primi mesi dell'89 avevano assaltato le fortezze dei nobili. Hanno preso le terre, si sono arricchiti e hanno formato una parte di quella fascia. E poi a un certo punto hanno detto ciao, io mi sono arricchito. E ci sto bene. Cioè, lui in un suo scritto se la prende. All'interno lui era un prete, quindi faceva parte all'interno di una canonica, e a un certo punto se la prende con questi contadini qua. E urla, fratelli, prendete le armi contro i fratelli, i vostri fratelli che si sono arricchiti alle vostre spalle. Ed erano i contadini che nei mesi precedenti, negli anni precedenti, avevano preso le terre dei nobili. Quindi, nel senso. Ma poi c'è una delinquenza allucinante. Sì, poi c'è una delinquenza. Bisogna dire che la Francia comunque in preda non solo a contadini avviati o comunque gente, ma delle bande di briganti che hanno approfittato della confusione. E quindi la borghesia, essendo in grado di comunque fare le forze armate, perché cosa è successo? Le forze armate francesi erano tutte in mano ai nobili. Quando c'è stata l'emigrazione dei nobili, non c'era più nessuno nelle forze armate in grado di dirigere i soldati. Lì si sono infilzati tutti, diciamo, i borghesi, hanno preso tutti i posti di generali e hanno formato questi eserciti. Tra cui c'era un certo soggetto, Renato Adagliaccio. Ah, non lo so. Ah, certo. Ovviamente, no, a parte che è nobile lui, però è un nobile così piccolo che l'hanno considerato una cosa che non dava fastidio, assolutamente. E praticamente il problema è che c'era una delinquenza così grande che c'era anche tanta gente del popolo che diceva meno male che ci sono questi borghesi che hanno rimesso un po' d'ordine nel paese. Sì. Perché era una situazione... Sì, molto, molto anarchica, ma senza un pensiero, c'era solo una confusione, non c'era una struttura. Però io non faccio né l'elogio della... Io sono di una famiglia che proviene dal rivoluzionario e anche di una super parigina proprio. E quindi conosco poco la rivoluzione da allievo, ripeto, non l'ho studiata tanto, però in famiglia abbiamo questa cosa che si tramanda proprio da padre in figlio. E onestamente il Parigi, perché parliamo comunque di una rivoluzione anche molto parigina, è una piazza dove se tu non consideri che cos'è la strada, cos'è il pericolo della strada, non capisci la rivoluzione. Perché Parigi era un posto pericolosissimo. Sì, sì, la rivoluzione, ma non perché c'era la rivoluzione, anche perché c'era la rivoluzione, ma anche perché era un posto di delinquenza che non si può neanche paragonare a nessuna città oggi. Era delirio totale. E quindi quando hanno levato la famosa arma ai cittadini francesi che le avevano in casa, la famosa Garde Nationale, là dovevano mettere, là è andata la polizia, praticamente moderna ed è nata dalle forze armate moderne e il controllo sulla popolazione. Lì il popolo non poteva più fare niente perché praticamente all'inizio del riflusso o aveva un'arma ed era ghigliottinato perché era considerato una persona che non rispettava la legge o doveva stare zitto e essere protetto o dalla polizia o dalle forze armate. Già.